Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Non vi preoccupate, care ascoltatrici, cari ascoltatori, non intendo fare di Effetto Notte un programma di musica pop, come del resto ce ne sono tanti, però volevo, in mezzo a tante tragedie, no? Ogni giorno ce n'è una da raccontare, iniziare in un modo un po', come si può dire, così, diverso, con una vicenda che ha del sorridente e del poetico anche insieme, no? Perché è successa questa cosa a Firenze, una signora di 98 anni, si è vista piombare in casa i vigili del fuoco perché la nipote li aveva chiamati dopo ore e ore che la cercava al citofono, al telefono, al campanello. Lei non rispondeva. E che cosa faceva questa signora di 98 anni da ore e ore? Aveva le cuffie ad altissimo volume con Eros Ramazzotti che andava, un po' come gli adolescenti, insomma, no? Gli adolescenti che possono sentire musica di vario tipo, da quella magari un po' più ritmata a quella struggente, come in questo caso. Insomma, comunque la signora evidentemente ha voglia di sognare, perché non sognare anche 98 anni vuol dire che è ancora viva, e l'importante è non fare preoccupare i parenti. Invece preoccupiamoci noi di tutte le notizie che anche oggi vi devo raccontare. Naturalmente ci sarà sempre in primissimo piano la catastrofe dell'aereo tedesco, perché ci sono tantissimi punti oscuri e veramente tante cose, aspetti contraddittori, però ancora rappresenta un mistero, nonostante sia stata trovata anche la seconda scatola nera, che però sembra molto danneggiata. Però dalla prima scatola che è stata trovata ieri alcune cose già potrebbero venire fuori nelle prossime settimane. Poi parleremo anche di Uffizi, perché è stato indetto uno sciopero pasquale. Però sentiamo entrambe le parti, chi dice, come il garante, che è una scelta assolutamente illegittima, perché soprattutto poi in certi momenti vanno assicurati tutti i servizi che fanno parte del lavoro intorno a un museo così importante, uno dei più importanti del mondo, e naturalmente anche i rappresentanti sindacali. Insomma, molte le cose. Parleremo anche di economia, perché ci sono degli spiragli positivi, come ancora è tornato a dire il ministro dell'economia Padoan, però dice bisogna ancora conquistare la fiducia dei consumatori. Voi, consumatrici e consumatori, questa fiducia ce l'avete? Ritenete che ci sia in vista davvero una ripresa economica? Ci sono sempre i vostri due canali privilegiati per intervenire con Effetto Notte, o i messaggi, gli sms al 349 238 6666, o sempre le vostre opinioni però sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi prima di partire con i temi in modo più approfondito e con gli ospiti, naturalmente andiamo a vedere che giornata in sintesi è stata. L'aereo precipitato in Francia, trovate le registrazioni vocali, ma ancora manca la scheda dati. Non esclusa per il momento nessuna ipotesi, e gli elicotteri hanno recuperato nel pomeriggio i primi corpi. Corruzione al via l'esame del disegno di legge, il voto ci sarà il 1° aprile, e Grasso commenta: troppi rinvii, resta comunque il nodo della prescrizione. Terrorismo, sgominata una cellula dell'ISIS tra Italia e Albania. Il ministro Alfano sottolinea: è la prima volta che si applica il nuovo decreto antiterrorismo. La situazione dell'economia, il ministro Padoan spiega: cresce la fiducia, ma difficile tornare a una situazione pre-crisi. Yemen è guerra aperta ormai nel paese, in fuga il presidente Hadi, i ribelli verso la città di Aden, e l'Arabia Saudita schiera truppe al confine. Napoli, una rapina da Far West in città, 10 feriti fra la folla, banditi in fuga su un'ambulanza dopo l'incidente con l'auto. Pare dal sito del Mattino che i rapinatori fossero carabinieri. Uffizi, il garante, blocca lo sciopero di Pasqua. La CGIL protesta, dice una decisione arrogante. Pillola del giorno dopo: la ricetta è obbligatoria solo per le minorenni. Musica, i One Direction si spaccano. Il 22enne Zayn Malik lascia la band amatissima dalle ragazzine. Fan disperati sui social. E partiamo quindi dalla tragedia dell'aereo precipitato sulle Alpi francesi. È stata recuperata anche la seconda scatola nera, anche se risulta molto danneggiata. Nessuna ipotesi ancora per il momento può essere esclusa, così ha detto il responsabile della sicurezza aerea francese. Die Gedanken der Franzosen, aber vor allen Dingen der Menschen hier in dieser Region. Ringrazia le autorità francesi per il lavoro che stanno svolgendo, Angela Merkel. Poi alle famiglie delle vittime garantisce la determinazione a scoprire le responsabilità del disastro. La cancelliera tedesca ha parlato insieme al presidente francese Hollande e lo spagnolo Rajoy nella conferenza stampa allestita a tempi record in un hangar del campo volo di Saint-les-Alpes nella zona del disastro dell'Airbus della Germanwings. Tra l'altro François Hollande ha chiarito che una scatola nera è già stata ritrovata, mentre dell'altra è stata rinvenuta sino ad ora solo la custodia, dunque la si continua a cercare. Sulle cause del disastro tutte le ipotesi rimangono aperte. Per arrivare ad una conclusione ha avvertito Rémy Jouty, il direttore della BEA, l'agenzia francese per la sicurezza dell'aviazione civile, occorreranno settimane o mesi. Jouty, rispondendo ad una domanda su una possibile esplosione in volo, ha spiegato che l'aereo ha volato fino all'impatto finale, aggiungendo però di non poter escludere alcuna ipotesi. Intanto è arrivata anche la conferma ufficiale: non c'erano italiani a bordo dell'Airbus caduto. Tra le 150 vittime, 72 erano tedeschi, 35 spagnoli e vi erano poi un danese, due colombiani, un olandese e due australiani, mentre proseguono le verifiche di altre persone i cui cognomi potrebbero trarre in inganno sulla nazionalità di appartenenza. L'identificazione dei corpi tramite DNA comincerà domani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo ancora all'estero. Una settimana dall'attentato di Tunisi, le autorità hanno annunciato oggi di aver arrestato il leader della cellula terroristica responsabile dell'attacco al museo del Bardo. Lo ha detto il quotidiano Al Maghreb Rafik Khali, che è segretario di Stato presso il Ministero degli Interni, che non ha voluto rendere nota l'identità del presunto capo della cellula jihadista. Si tratterebbe di un tunisino residente abitualmente in Belgio. Il gruppo ideatore e realizzatore del piano sarebbe composto da 16 persone, di cui alcune arrestate, riconducibile alla brigata jihadista tunisina Oukba Ibn Nahf, diretta dal terrorista algerino Loukman Abu Sakra, attualmente ricercato. I nomi vi dicono poco, ma insomma cominciano i primi arresti. E anche in Italia sono stati scoperti e arrestati 3 presunti terroristi. Operavano fra l'Italia e i Balcani e il loro obiettivo era soprattutto quello di reclutare aspiranti jihadisti da inviare in Siria. Sono 3 gli estremisti islamici arrestati in provincia di Torino e a Tirana nel blitz antiterrorismo coordinato dalla Digos di Brescia. 2 sono cittadini albanesi di religione musulmana, zio e nipote ventenne. Il terzo, anche lui ventenne, italiano, figlio di marocchini, è ritenuto l'autore del documento di propaganda dell'ISIS, scritto in italiano, apparso di recente sul web. Ad occuparsi del reclutamento, sempre su internet, erano i 2 albanesi che, secondo il procuratore capo di Brescia, Buonanno, avevano avvicinato anche dei giovanissimi. Si tratta in alcuni casi di minorenni, uno di questi è addirittura nato in Italia, ma è figlio di cittadini tunisini. Il giovane, residente in provincia di Como, ora è sottoposto al regime di sorveglianza speciale. Un 4º mandato di arresto è stato emesso nei confronti di un cittadino marocchino residente nel Bresciano, arrestato nel 2013 e poi scarcerato per decisione del Tribunale del Riesame. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce e ora, secondo gli inquirenti, si troverebbe in Siria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a effetto giorno il ministro dell'Interno Alfano sottolinea che si tratta della prima applicazione del decreto antiterrorismo. Per la prima volta è stata usata una norma del decreto approvato il mese scorso, quello che ho proposto io sull'antiterrorismo, che applica le misure di prevenzione, la sorveglianza speciale tipicamente usata fin qui per i mafiosi anche ai sospettati di terrorismo. Noi abbiamo lavorato sulla prevenzione molto duramente, sono 25 i soggetti allontanati dal territorio nazionale dalla fine dello scorso mese di dicembre, 25 espulsi, quindi tutte iniziative di sicurezza nei confronti di estremisti islamici. Questa è un'ulteriore prova che la prevenzione funziona. Poi se lei mi chiede, noi siamo un paese a rischio zero, io le rispondo che noi non siamo un paese a rischio zero, che non esiste un paese a rischio zero, sebbene noi non abbiamo ancora la traccia, la prova di una minaccia specifica. Parliamo anche di Yemen, dove ormai è guerra aperta, combattenti sciiti Houthi conquistano una base aerea, la base aerea americana e l'aeroporto della città di Aden. Il presidente fugge dal palazzo dove si era rifugiato, lascia il paese via mare, su di lui una taglia di $100,000, intanto l'Arabia Saudita schiera truppe al confine. E adesso siamo sulla politica italiana, ha preso il via oggi al Senato l'esame del disegno di legge anticorruzione. Prescrizione e corruzione restano terreno di scontro all'interno della maggioranza. I malumori del nuovo centrodestra sono rinviati all'aula di Palazzo Madama, dove i voti dei centristi saranno determinanti. Sulla prescrizione Alfano ricorda: il punto è la durata dei processi. Il cittadino deve sapere che c'è un momento in cui lo Stato dice basta perché non ce la fa a dimostrare la consapevolezza. Più agevole sembrerebbe il percorso del DDL anticorruzione. I nodi con l'NCD sono risolti, commenta il ministro della Giustizia Orlando. Si voterà intanto il prossimo 1 aprile, così hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama. Dal presidente del Senato Grasso arriva comunque l'invito alle forze politiche a fare presto. Mi sono impegnato così energicamente per rafforzare la risposta sanzionatoria e preventiva dello Stato e finalmente siamo riusciti a dare avvio al dibattito parlamentare. La legge sulla corruzione, dopo tanti, troppi rinvii. Record non invidiabile intanto secondo l'OCSE per il nostro paese. La percezione della corruzione nelle istituzioni governative e locali in Italia sfiora il 90%. A seguire Portogallo e Grecia, la percezione più bassa è in Svezia ed è inferiore al 15%. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi economia, con la dichiarazione del ministro Padoan oggi intervenendo al Salone del Risparmio, ha detto: la fiducia dei consumatori e dei mercati si sta consolidando in Italia, anche il quadro internazionale sta migliorando, anche se non potremo tornare alla situazione pre-crisi. Voi che cosa ne pensate? Avete fiducia nella ripresa economica? 349-238-6666 è il numero per i messaggi e le vostre opinioni, naturalmente anche sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra l'altro, a proposito di economia, il direttore generale del Tesoro ha disposto una piccola curiosità: per l'anno 2015 l'emissione di due monete commemorative da 2 euro, una che sono di circolazione ordinaria dedicate, una a Dante, l'altra all'Expo. E poi una notizia che riguarda l'immigrazione: sarebbero gruppi armati libici a organizzare per autofinanziarsi molti sbarchi di migranti sulle coste italiane. Questo emerge da un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo. C'è anche il processo per l'omicidio di Meredith, che la sentenza della Cassazione è slittata in realtà a venerdì, ma c'è il procuratore generale che intanto chiede che siano confermate le pene per Amanda Knox e per Raffaele Sollecito. Per Amanda 28 anni e mezzo e per Sollecito a 25 anni, però questo si saprà venerdì. E poi questa rapina da Far West, con 10 feriti vicino Napoli, il bilancio di un tentativo di rapina in un supermercato a San Giuseppe Vesuviano, alla quale è seguito una sparatoria, un inseguimento in auto dei banditi che poi hanno fatto un incidente, sono scappati su un'ambulanza, anche se vedevo adesso un'agenzia che parla di un racconto piuttosto pieno di contraddizioni da parte di 2 carabinieri tra i 10 feriti che a loro volta sono rimasti feriti. Il sito del Mattino, del quotidiano Mattino, parla addirittura di rapinatori carabinieri, quindi ancora non è chiara questa faccenda. E poi una vittima a causa del maltempo vicino Roma, una grossa quercia caduta su un'auto in via dei Laghi all'altezza del chilometro 15 vicino Roma. Secondo quanto si è appreso dalla polizia stradale, la persona che era all'interno è deceduta, la macchina completamente schiacciata. C'è anche una notizia che riguarda la pillola del giorno dopo. Niente ricetta per questa pillola del 5 giorni dopo, cioè quella del giorno dopo, ma quella dei 5 giorni dopo, tranne che per le minorenni. Lo ha deciso la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, che ha approvato per l'Italia una disposizione che si discosta solo parzialmente dalle indicazioni dell'Agenzia Europea. Scompare l'obbligo di eseguire il test di gravidanza. E dopo Ramazzotti, a seconda dei gusti, ma questo per dirvi che i One Direction si spaccano, perché Zayn Malik, 22 anni, cantante inglese, membro di questa, è una delle band più amate al mondo dalle ragazzine, ha comunicato, questo 22enne, ufficialmente di volersene andare dal gruppo dopo aver abbandonato il tour asiatico. Pare che lasci per stress, dice: devo fare quello che penso sia giusto, voglio una vita normale. Pensate, c'è chi vuole una vita di successo, di gloria, di soldi, e lui vuole una vita normale. I fan sono assolutamente disperati sui social. E poi per chiudere, una sentenza piuttosto incredibile nel mondo del calcio riguarda la Germania. Up steps Neil Müller and it's tipped away. A great save there from Müller. Heinz Müller denies Preston. Il suo nome è Heinz Müller, ha 36 anni ed è un portiere, anche bravo, come testimoniano le sue prodezze sparse sul web, a cui lo scorso giugno è scaduto il contratto con il Mainz, squadra della Bundesliga. Lui voleva rinnovare, anzi pretendeva un contratto a tempo indeterminato. Il club no. E Müller allora ha portato la società tedesca in tribunale. La citazione in giudizio da parte del portiere era stata sottovalutata sia dal Mainz che dai media. Poi però è arrivata la sentenza del giudice del lavoro, Ruth Lippa. Gli sportivi vanno considerati come tutti gli altri lavoratori, proprio a partire dalla sentenza Bosman del 1995, e hanno quindi diritto, ha detto il giudice, dopo 2 anni di lavoro, a un contratto a tempo indeterminato. Non è quindi da considerarsi valida la scadenza del contratto, salvo non sia il calciatore stesso a preferire un contratto più flessibile. Ricorreremo sicuramente in appello, ha dichiarato Harald Stutz, proprietario del Mainz, ma fino a quel giorno un brivido freddo correrà lungo la schiena dei dirigenti del football europeo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito, si va verso ormai la fine del tempo indeterminato, tranne in questo caso che per i calciatori, che evidentemente se la passano piuttosto male, almeno in Germania. Poi naturalmente questo era il giudizio di primo grado, sarà interessante vedere come va a finire questa vicenda. Intanto interessiamoci ai temi che man mano tratterò con gli ospiti e all'input che vi ho lanciato sia per la pagina Facebook di Effetto Notte sia ai messaggi al 349-238-6666 sulla ripresa economica. Padoan è stato piuttosto ottimista oggi, voi cosa ne pensate? Siete ottimisti in questo senso? Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, e vi riaccolgo con un aggiornamento sulla notizia di questa rapina da Far West vicino Napoli. Prima vi dicevo che c'erano delle contraddizioni nei racconti dei due carabinieri rimasti feriti tra i 10 feriti di questo tentativo di rapina in un supermercato. Ebbene, sono stati fermati questi due carabinieri feriti nella sparatoria successiva a questa rapina nel supermercato Etè di Ottaviano vicino Napoli. I due erano in congedo. Dal loro racconto sono emerse forti contraddizioni che fanno ritenere agli inquirenti che siano coinvolti nell'esecuzione del colpo. Non c'è più davvero religione, si potrebbe dire. Intanto vorrei vedere leggere alcuni vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della fiducia nella ripresa economica. Giorgio dice: sì, ma non grazie alle scelte dei governi che si sono succeduti. Se qualcosa dovesse andare meglio sarà non grazie alle istituzioni ma nonostante le istituzioni, dice Giorgio. Luca: non sono fiducioso, corruzione e burocrazia sono grandi nemici di un'economia florida e questi governi certo non lavorano per ridurre queste piaghe che anzi sono elementi strutturali di questo sistema. Molti altri i vostri messaggi, però vi riassumo le notizie più importanti se avete acceso in questo momento e poi andiamo sull'argomento che continua a essere quello di primo piano. Un mistero ancora lo schianto dell'Airbus sulle Alpi francesi. Qualcuno per il momento esclude il sabotaggio, c'è l'esame comunque nelle prossime settimane delle scatole nere. Intanto Hollande, Merkel e Rajoy rendono omaggio alle vittime. Tensione per quanto riguarda la politica italiana sul disegno di legge anticorruzione, voto al Senato il 1 aprile, speriamo che non sia uno scherzo. Minoranza del PD intanto chiede un confronto sulle riforme, la maggioranza del PD, il nuovo centrodestra chiede al governo una lotta comune contro la corruzione. E poi il disegno di legge, invece il decreto legge antiterrorismo, ci sarà meno privacy per i dati social, potranno anche controllare i PC dei cittadini. Intanto è stata smantellata una cellula dell'ISIS che agiva tra Italia e Balcani. Padoan, ve lo dicevo, il ministro dell'economia ha detto oggi al Salone del Risparmio che cresce la fiducia ma è difficile tornare alla situazione pre-crisi, però ci sono segni di ripresa, dice anche Confindustria. Per il processo per l'omicidio di Meredith il procuratore generale della Cassazione chiede di condannare Amanda e Raffaele, ma il verdetto slitta a venerdì, doveva esserci oggi. Della rapina da Far West vicino Napoli vi ho già raccontato. Poi guerra aperta nello Yemen, in fuga il presidente, i ribelli verso la città di Aden. E poi Tavecchio dice: abbiamo ragione noi su Calciopoli, la Juve temeraria se chiede un ricorso. E adesso parliamo appunto ancora della catastrofe aerea di ieri dell'Airbus 320 della compagnia tedesca Germanwings, che nel volo tra Barcellona diretto a Düsseldorf si è schiantato sulle Alpi francesi con 150 persone a bordo. L'aula dell'Europarlamento di Bruxelles oggi ha tenuto un minuto di silenzio. In Spagna già ieri erano stati annunciati appunto 3 giorni di lutto. C'è la corsa per recuperare le vittime, addirittura si accendono fuochi per tenere lontani i lupi per evitare un ulteriore scempio di questi corpi. Ci sono anche poi le storie particolari delle vittime, due sposini marocchini che erano stati a Barcellona per sposarsi, erano sposati da 3 giorni, e poi questa scolaresca di studenti liceali tedeschi che, pensate, erano stati estratti a sorte tra tutti quelli che avevano chiesto di fare questo scambio culturale con una scuola di Barcellona. Erano troppe le richieste, sono estratti a sorte, soprattutto studentesse. Questa è stata passare dalla fortuna, pensate, invece a una tragedia come questa. E tra i 3 leader di Francia, Germania e Spagna oggi erano uniti nel luogo della tragedia, però troppe cose, troppi punti oscuri, troppe cose continuano a non tornare su questa vicenda. Si parla proprio di mistero e ne parliamo con Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Mariano. Buonasera. E con Gregory Aleggi, che è docente alla LUIS, dove insegna gestione delle compagnie aeree, direttore di Dedalo News, che è un quotidiano online di aerospazio, difesa e sicurezza. Buonasera Aleggi. Buonasera. Mariano, visto che tu sei stato oggi sul posto, si parlava appunto purtroppo di corpi ormai ovunque, l'aereo si diceva visto dall'alto polverizzato, leggevo esatto. Che alcuni elicotteri hanno cominciato a recuperare i primi corpi nel pomeriggio. Sì, infatti, solo gli elicotteri riescono ad entrare arrivare in questa zona impervia, perché c'è un cammino complicatissimo di 8 chilometri, più di 8 chilometri a piedi, e quindi inizia un'opera che durerà mesi, si dice, perché i frammenti dell'aereo sono sparsi su parecchi chilometri e i corpi sono ridotti in uno stato pietoso. Ecco, il capo dei soccorsi oggi non ha voluto soffermarsi su questo dettaglio e ha però fatto un'espressione col viso che era un misto di raccapriccio e di pietà. E questo è l'aspetto più sconvolgente, perché sarà complicato poi risalire all'origine dei corpi, visto che sono così, diciamo, implosi, ecco, per non usare altre espressioni ben più grevi. Senti, c'erano le autorità, abbiamo parlato anche del presidente francese Hollande, la cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro spagnolo Rajoy. Sì, è inusuale, io non ricordo francamente di 3 capi di Stato e governo appunto che si riuniscano per un evento così, per carità, tragico, luttuoso. Però è come se si aspettassero, perché non si può escludere, non ha detto anche il direttore del Bureau di investigazione francese, la pista terroristica, non si può escludere, perché le ipotesi sono 3 sostanzialmente: o i piloti sono stati costretti a fare questa scelta. Quindi da un atto terroristico, da un terrorista, eventuale terrorista. Questo. Sì, un eventuale terrorista. O l'hanno fatto scientemente, oppure l'esplosione del litio contenuto nelle batterie degli smartphone, dei PC, sono stati censiti molti casi dall'aeronautica di questo tipo, cioè, praticamente non hanno più capito nulla e l'aereo è precipitato. Quindi, come dire, le prime 2 ipotesi sono comunque infauste, quindi non provocate appunto da un evento terzo, quindi in qualche modo c'è una inserimento, c'è un fatto doloso, bisogna capirlo. Anche se voi le vite dei piloti, cioè io per carità 2 giorni sono qui in mezzo alle montagne, quindi non è che abbia letto tutti i giornali italiani ed europei, però forse bisognerebbe approfondire, come accadde per l'aereo famoso malaysiano, anche l'esistenza di questi 2 piloti, come dire, il passato, perché potrebbero esserci anche delle ombre. Cioè, tutti i dubbi vanno fugati, ma i dubbi sono N. La storia dei 150 passeggeri, la lista dei passeggeri che a quasi 3 giorni dall'incidente non è stata divulgata, ed è curioso che una compagnia così efficiente come Lufthansa, perché ricordiamo General Wings appartiene al network Lufthansa, non abbia ancora reso i nomi. Ecco, questo magari potrebbe spiegarcelo il nostro ospite. Infatti gli do subito la parola a Mariano Maugeri. Professor Aleggi, ha sentito anche i dubbi e le ipotesi intorno a questa catastrofe? Guardi, così 36 ore dall'evento, tutte le domande sono legittime, ma non ci si può spingere oltre il doveroso, come dire, fatto di contemplarle tutte. Già iniziare ad avvalorarle, a vedere misteri nella mancata pubblicazione di una lista, mi sembra spingersi un po' troppo in là. Il primo obiettivo è quello di verificarla, questa lista. Ci sono degli obblighi normativi precisi di contattare, avvertire le famiglie e quant'altro, poi secondariamente la si può, come dire, pubblicare anche nei confronti di chi non ha un coinvolgimento, un interesse diretto. Di sicuro la normativa europea, il regolamento del 2010 sull'investigazione degli incidenti, prevede che entro un mese ci sia una prima comunicazione fattuale, quindi l'elenco dei fatti già accertati, che ci sia il completamento dell'inchiesta entro un anno, oppure comunque entro un anno la pubblicazione di un rapporto intermedio già con diciamo lo stato delle indagini e non soltanto dei fatti. Professore Leggi, però due aspetti: il fatto che non sia stato lanciato questo SOS dall'equipaggio e il fatto che abbia mantenuto questa rotta sempre dritta verso questa montagna francese invece di cambiare direzione, come li spiegherebbe? Guardi, non studiamo geometria a scuola, no? Ci insegnavano che per un punto passano infinite rette. Il problema è che qui abbiamo due punti e due rette diverse. Quella del mancato, diciamo, della mancata comunicazione può spiegarsi in diversi modi in realtà. Un equipaggio, come si dice tecnicamente, incapacitato, diciamo non cosciente, potrebbe essere quel problema ipotetico. Pressurizzazione, depressurizzazioni, potrebbe essere un il problema eventuale delle batterie, che mi sembra, ripeto, con una batteria normale da telefonino estremamente improbabile. Ci sono stati degli incendi addirittura di batterie al litio, ma parliamo di aerei cargo che ne portavano migliaia, che una batteria si danneggia al punto di essere una nube così tossica che entrambi i piloti non riescono a far nulla, nemmeno indossare la maschera, la bombola che ci sono per questi casi. Per carità, tutto è possibile, tutto accade una prima volta, però non mi sembra l'eventualità più forte. Dicevo, quindi, da un lato potrebbe aver perso conoscenza, dall'altro però quella traiettoria che è stata pubblicata mostra, come dire, una pendenza, un andamento costante, non sembra un aeroplano fuori controllo. Quindi per ciascuno di quei due punti passa una retta, ma non è la stessa. Può esserci un misto, una manovra impostata e l'incapacità successiva? Potrebbe, ma in questo momento non abbiamo dati. Abbiamo una giusta, comprensibile curiosità, un dubbio che ci brucia, ecco, però non abbiamo gli elementi per dare una risposta scientifica, una risposta seria che fughi i dubbi. Quindi dobbiamo limitarci a cercare questi dati e quando li avremo potremo formulare una risposta anche, si spera, convincente. Certo, avremo quindi tanto tempo ancora per farci domande, interrogativi, dubbi. Intanto io ringrazio Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Mariano, e il professor Gregorio Leggi. Torneremo naturalmente ancora molto su questo argomento. Buona serata a voi, e noi ci prendiamo adesso un po' di ricreazione e poi vi aggiorno di nuovo sulle notizie man mano. Voi continuate con le vostre opinioni sulla possibile ripresa economica. Avete fiducia? Pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Vedevo un ulteriore aggiornamento di questa vicenda che riguarda questa tentata rapina in un supermercato di Ottaviano vicino Napoli. 10 sono stati feriti in questa rapina da Far West, ci sono stati inseguimenti, sparatorie, sono stati fermati i due carabinieri rimasti feriti in questa sparatoria, sono stati fermati perché nei loro riguardi sono ipotizzati reati di rapina aggravata e tentato omicidio plurimo, quindi ci sarebbe questa svolta in questo fatto pesante di cronaca oggi. Ma come se non bastasse, ancora una notizia arriva pochi istanti fa da vicino Napoli, a Ponticelli. Una persona è morta e un'altra, che non era l'obiettivo dei sicari, era un passante, è rimasta ferita in un agguato in via Palermo, nel rione Conocal del quartiere di Ponticelli a Napoli. È la stessa zona dove sono stati arrestati ieri 40 appartenenti a un clan camorristico. Cioè, non c'è pace per quella città. E adesso vi riassumo le notizie più importanti. Voglio leggere anche qualche messaggio sulla ripresa economica, la vostra fiducia rispetto a quello che ha detto Padoan oggi, al 349-238-6666, anche la pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Carmine da Rocca Salerno: in Europa ci sono circa 30 milioni di disoccupati, non vedo tutto questo ottimismo che vede il ministro, in Italia la ripresa sarà quasi impossibile. Poi invece un altro ascoltatore dice: sì, se diminuiscono le tasse ci sarà più consumo, altrimenti no. Massimiliano da Milano: avrò fiducia nella ripresa quando vedrò licenziare 300.000 burocrati e investire i miliardi risparmiati in opere sul territorio. Adesso andiamo di nuovo a ricordare le notizie più importanti del giorno. Quindi, a parte la rapina a Napoli, il tentativo di rapina da Far West, con questa svolta con due carabinieri arrestati per il momento, c'è naturalmente sempre in primo piano l'aereo precipitato in Francia, sono state trovate le registrazioni vocali, ma manca ancora la scheda dati della seconda scatola nera, ancora non è esclusa nessuna ipotesi. Gli elicotteri hanno recuperato oggi i primi corpi. Corruzione: al via l'esame del disegno di legge, il voto ci sarà il primo aprile, e Grasso commenta: troppi rinvii, resta comunque il nodo della prescrizione. Terrorismo: sgominata una cellula dell'ISIS tra Italia e Albania. Il ministro Alfano sottolinea: è la prima volta che si applica il nuovo decreto antiterrorismo. La situazione dell'economia: il ministro Padoan spiega: cresce la fiducia, ma è difficile tornare a una situazione pre-crisi. La guerra ormai aperta nello Yemen. E poi lo sciopero agli Uffizi, di cui parleremo tra pochissimo. La notizia che riguarda la pillola del giorno dopo: la ricetta è obbligatoria solo per le minorenni. E per quanto riguarda la musica, una cosa che forse più appresa sui più giovani, One Direction si spaccano con il 22enne Zayn Malik, che lascia la band amatissima dalle ragazzine. I fan sono completamente disperati sui social. E quindi parliamo degli Uffizi di Firenze, che sono uno dei musei più belli, più ricchi, più importanti del mondo. Le sigle sindacali di Filcamps della CGIL e Will Tux della UIL sono rappresentanti sindacali del personale della società Opera Laboratori Fiorentini, operante presso il Polo Museale di Firenze, hanno proclamato uno sciopero per il 4 e il 5 aprile prossimi, cioè il sabato prima di Pasqua e la stessa domenica di Pasqua. Ma l'autorità garante per gli scioperi ha parlato di scelta illegittima, spiegando che la legge sul diritto di sciopero comprende tra i servizi pubblici anche quelli di sorveglianza e vigilanza dei beni culturali. Allora, tra poco dovrebbe raggiungerci Massimiliano Bianchi, segretario della Filcamps Firenze, che fa capo alla CGIL. Bianchi? No, è caduto perché è in treno e ci sono un po' di difficoltà. Intanto parliamo con Giovanni Pino, che è capo di gabinetto della Commissione di Garanzia sugli scioperi. Buonasera Pino. Sì, buonasera a voi e agli ascoltatori. Quindi avete giudicato illegittima questo sciopero indetto per il 4 e 5 aprile agli Uffizi di Firenze, come mai? Beh sì, intanto non l'abbiamo definitivamente giudicato, noi abbiamo fatto un'indicazione immediata, abbiamo segnalato una possibile illegittimità, perché lo sciopero riguarda il personale di una società che è preposta all'erogazione di servizi pubblici essenziali. È una società al quale il Ministero dei Beni Culturali, diciamo, affida appunto l'erogazione di servizi pubblici. E come tale quindi è sottoposta e soggetta, rientra nel campo di applicazione della legge 146, e quindi c'è una presunta illegittimità a monte, cioè che sta nel fatto che sono state violate alcune regole che riguardano la legge e l'accordo ministeri, accordo del comparto ministeri, tra le quali appunto importante quella della franchigia pasquale. Si prevede appunto che dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo non possono essere proclamati scioperi per questo tipo di personale, ecco. Perché dite è uno di quei periodi canonici in cui c'è maggiore affluenza in un museo? Questo è un elemento di grande civilizzazione del conflitto, sono appunto le franchigie che derivano proprio dalla cultura sindacale. Infatti mi dispiace, perché è il sindacato che ha insegnato queste cose, cioè le franchigie sono stati individuati in vecchi accordi sindacali ancora precedenti alla legge 146, guardi per esempio il protocollo signorile degli anni 84-86, e si tratta di periodi che coincidono con particolari esigenze, con particolari periodi di maggiore fruizione da parte dell'utenza, nel quale il sindacato si è impegnato, si impegna a non scioperare. E allora ecco che lo abbiamo raggiunto, Bianchi, che viaggia in treno a gran velocità, ha sentito. Buonasera Bianchi. Sì, ho sentito in parte. Quindi perché avete deciso? Uno dice, certo, se vogliamo fare danno bisogna scegliere proprio un momento particolare, sennò se scioperiamo in un qualsiasi altro giorno, qualunque dell'anno, si fa meno impatto. E questa è la scelta, Bianchi? No, abbiamo deciso assolutamente nella logica del danno. Noi abbiamo deciso perché riteniamo sostanzialmente che quei servizi, che io voglio ricordare, io non faccio il giurista, ma oggi pomeriggio noi abbiamo ovviamente fatto un'analisi sulla normativa, e quindi la normativa che attiene, e quindi la valutazione che noi facciamo, non è una normativa che rientra nei servizi essenziali, pubblici essenziali, perché questi lavoratori non rientrano ovviamente né nella vigilanza né nella sorveglianza dei beni artistici. Che tipi di lavoratori sono, Bianchi, e perché c'è questo sciopero? Quindi che categorie sono di lavoratori? Sono lavoratori che fanno attività di bookshop, biglietteria, guardaroba, ma non fanno assolutamente sorveglianza. Per cui ci siamo rimasti molto stupefatti, e quindi ricorreremo ovviamente nei confronti della Commissione di Garanzia sugli scioperi, e noi rispettiamo evidentemente, e quindi, come sentivo dire, abbiamo fatto anche degli accordi rispetto a questo, sapendo è sempre una partita molto complicata perché ci sono molte regolamentazioni provvisorie, non ci sono stati alcuni accordi in alcuni settori per effetto ovviamente anche di molte difficoltà. Bianchi, abbiamo ancora poco tempo, se mi dice i motivi al di là della scelta dei giorni. I motivi sono attinenti al fatto ovviamente noi non abbiamo una clausola sociale, l'abbiamo chiesta al Ministro, gli abbiamo detto sostanzialmente noi la volevamo riconoscere, diciamo, nero su bianco. Ad oggi noi questa cosa non l'abbiamo, abbiamo solo ed esclusivamente degli annunci. Vorremmo che questi annunci si traducessero sostanzialmente in un qualcosa di oggettivo, e a quel punto noi saremo disposti ovviamente a togliere lo sciopero. Quindi, cioè, a riconoscere la vostra categoria o darvi qualcosa che non avete ottenuto finora? È una clausola sociale, vuol dire che c'è un appalto e questi lavoratori non sappiamo assolutamente se saranno ripresi, perché abbiamo una normativa in questo paese che non ci consente sostanzialmente di questo, e quindi abbiamo chiesto al Ministro di poterci ovviamente riconoscere la clausola sociale dentro il nuovo appalto che ci sarà ovviamente prossimamente. Questo non c'è, e quindi noi di fronte a questo non possiamo scioperare di fronte a 400 famiglie che vivono una condizione di forte drammaticità in un momento nel quale c'è una crisi occupazionale di un lavoro, ripeto, che non è un lavoro che scompare, è un lavoro che sostanzialmente rimane. Massimiliano Bianchi, la ringrazio, ringrazio anche Giovanni Pino, non ho purtroppo più tempo per far dibattere, ma sono chiare le posizioni, vediamo se fino al 4-5 aprile si arriva a un qualche accordo. Grazie Bianchi, grazie Pino, c'è viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In breve vi ricordo le notizie più importanti, naturalmente sempre lo schianto dell'Airbus tedesco sulle Alpi francesi, ancora un mistero, non è esclusa nessuna ipotesi, intanto sono all'esame le scatole nere, oggi c'erano sul luogo della tragedia Hollande, Merkel e Rajoy. Per quanto riguarda la politica italiana, tensione sul disegno di legge anticorruzione, il voto al Senato ci sarà il 1 aprile, e il decreto legge antiterrorismo prevede meno privacy per i dati social, la possibilità quindi di controllare anche i PC, meno privatezza insomma per i cittadini. Intanto è stata smantellata una cellula ISIS che faceva proseliti tra l'Italia e l'Albania. Padoan, il ministro dell'economia, dice cresce la fiducia ma è difficile tornare alla situazione pre-crisi, tra poco leggerò i vostri tanti messaggi che sono arrivati, e poi il verdetto sull'omicidio di Meredith Kercher che è slitta a venerdì. Europa 24 notte. A parlare per lo spazio europeo invece di vittime della strada, dopo abbiamo parlato di questo terribile incidente di domenica scorsa dove è morto questo 14enne a Monza, che ha riaperto il dibattito sul reato di omicidio stradale. In Europa ogni giorno muoiono 70 persone per incidenti stradali, quasi 3 ogni ora, ma nel 2014 la situazione è in miglioramento con una diminuzione dei decessi dell'1% rispetto al 2013. Non è grande cosa, quanto emerge dalle statistiche della Commissione europea, che però avverte l'obiettivo della riduzione del 50% dei decessi entro il 2020 è ancora lontano. E su questo sentiamo Evelina Jelenkowska, che è portavoce della Commissione in Italia, al microfono di Alessandra Schepisi. C'è un leggero miglioramento, effettivamente, però ci vorrebbe ancora di più. Nel senso che come numeri siamo nell'ultimo anno è un miglioramento di 1%. Negli ultimi 5 anni di 18,2% a livello dell'Unione Europea, quindi ci stiamo avvicinando, però l'obiettivo prefissato dall'Unione Europea è quello di ridurre gli incidenti mortali di 50% i numeri di decessi entro 2020, e lì c'è ancora tanto da fare per arrivare. E l'Unione Europea come si muove? Quali sono le iniziative per raggiungere questo obiettivo di riduzione del 50% del numero dei decessi entro il 2020? Sì, intanto a brevissimo, a maggio 2015, dovrebbe uscire una relazione intermedia che definisca un programma, cioè quello che bisognerebbe, che la Commissione auspica che si faccia per abbassare questo tasso di mortalità. Sappiamo che i motivi degli incidenti sono vari e sono legati sia all'autista, diciamo, che alle infrastrutture, e bisogna lavorare su entrambi i fronti. Ci sono paesi più virtuosi o meno in base a questi dati che ha pubblicato la Commissione europea? Sì, ci sono virtuosi, non so se possiamo definire virtuosi, meno fortunati e più fortunati. Ecco, meno fortunati e più fortunati, va bene, per vari motivi poi, insomma. Per vari motivi effettivamente sono un po' meno fortunati, come ad esempio il primato purtroppo fatale nel 2014 è andato a Latvia con Lettonia. Sì. L'Italia è nella media perfetta, quindi siamo a circa 52 casi di decessi per un milione di abitanti. Ci sono anche chi non ha veramente problemi o ne ha veramente meno, come ad esempio Svezia, che da anni detiene quasi il primato nel numero, quindi questo indica sicuramente ottime infrastrutture e indica anche una grande cultura di utilizzo delle strade, perché sono questi gli elementi principali. Infatti quello che sta pianificando la Commissione europea è di riesaminare le norme in materia di formazione e qualificazione dei conducenti professionali e di fare una proposta possibilmente entro la fine dell'anno prossimo. E poi di rivedere anche il quadro comune dell'Unione europea per quel che riguarda la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Quindi, come detto, cercheremo di lavorare su entrambi i fronti. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Finalmente sulle previsioni di Padoan, al Salone dei Risparmi, il ministro dell'Economia ha detto che la fiducia si sta consolidando in Italia, sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto la fiducia delle istituzioni europee. Ora la battaglia è vincere, raggiungere e conquistare la fiducia dei cittadini, delle famiglie e delle imprese italiane. Moltissimi vostri messaggi, alcuni li ho letti, ora non faccio in tempo a leggere gli altri, però molti sono scettici. Riassumo con questo messaggio di Marco, che dice: sono ottimista per il futuro, vado a lavorare in Austria. Caro Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 ore. Ciao, buonasera. Ciao Chicco. Quindi come dobbiamo essere ottimisti, pessimisti? Qualcuno dice ogni poco vengono fuori con l'ottimismo, poi però non si vedono effettivamente i risultati. Ma sai, devo dire onestamente, senza esagerare, insomma, però negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, insomma, qua e là qualche segnale incoraggiante si vede. Lo diciamo tante volte, no? Siamo in una fase diciamo un po' forse magica, no? C'è la liquidità di Draghi che arriva, il dollaro che si sta rafforzando, quell'euro diventa sempre più debole, ci sono i prezzi delle materie prime, petrolio innanzitutto, che sono, diciamo, in discesa o insomma non sembrano preoccupare. Quindi scusa, Chicco, come dice Enzo, qualcosa si sta muovendo, ma non per merito di Padoan o di Renzi, quindi stai dicendo questo praticamente? Diciamo, ma lo stesso Padoan oggi tutto sommato dice esattamente questo, cioè che c'è una finestra di opportunità dovuta proprio a queste, diciamo, coincidenze astrali che non dipendono da noi, che insomma dipendono dal contesto mondiale, internazionale, E però cosa dice Palo? Anche noi, insomma, dobbiamo essere in grado di cogliere questa finestra, perché quando la finestra si chiuderà, quando arriveranno tempi più bui, noi, e quindi diciamo il governo, insomma, dovrà aver portato a casa tutte quelle cose che giustamente dice e dobbiamo portare a casa. Quindi bisogna concludere le riforme, bisogna attrezzare il paese per prepararsi, no? E per fare adesso, che è un momento diciamo meno buio rispetto al poi, le cose non è che vadano benissimo, lo sappiamo, insomma, l'occupazione, la disoccupazione continua a essere un grosso problema, eccetera. Però diciamo in questa fase qui qualche speranza in più si vede, e quello che ha detto Padoan oggi è: abbiamo, insomma, convinto sia i mercati internazionali sia le istituzioni internazionali che stiamo lavorando bene. Dobbiamo anche convincere le imprese e la gente a ritrovare fiducia. In fondo i messaggi che tu hai letto ci dicono esattamente che lì abbiamo ancora molto lavoro da fare, perché la gente la fiducia non l'ha ancora riconquistata, per esempio. Ti confermo, veramente tanti messaggi in questo senso, vediamo se la prossima volta vanno un po' meglio. Grazie Chicco Padula. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao Chicco, e adesso poi potete continuare a leggere gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli altri sms, magari, ecco, adesso non c'è tempo, mi dicono, a tra poco.